Maestro, sto cercando di capire come abbassare sto rumore, perché cioè io sentivo il mio rumore, sì. Sì, ma se io alzo te. E questo ho fatto, però se io alzo il tuo, ti alzo per sentirti di più, si alza automaticamente il rumore, capito? River. Ah no, io sono generico per ninja, scusa, che è la stessa cosa, no? Sì, ok. Ah, ok. Ah, ecco qua. No, io devo fare un corso di computer con te. Com'è possibile sta cosa? Come cacchio è possibile? Devo smanettarci un po', non lo so, devo mettere. Sì, Windows 10. Sì. come devo fare? Della cassa. Ah, qui c'ho apri mixer volume, apri impostazione audio spaziale disattivato e poi c'ho suoni e risolvi problemi audio. Queste sono le cose che. Dove? Esatto. Tasto destro mi dà queste voci. Apri mixer volume. E non c'è il dispositivo di registrazione. Apri mixer volume, apri impostazioni audio forse. È quello che è. Risolvi i problemi audio, suoni e audio spaziale disattivato. Allora, mi dà schermo audio, queste qui le cose. Input mi dà scegliere il dispositivo input, microfono, dispositivo high definition audio. No.